Capitolo quarto. L'ordinamento sociale. I cardini su cui ruota il sistema sociale islamico sono la pari dignità delle creature umane e la loro fratellanza. Le varianti naturali che esistono nella realtà non hanno alcuna rilevanza discriminatoria nell'ordinamento islamico. Tutti gli uomini discendono da Adamo ed Eva, quindi sono fratelli e hanno pari dignità in quanto compartecipi tutti del privilegio del libero arbitrio con cui Allah, il Dio, ha dato all'uomo una condizione di superiorità rispetto agli angeli e alle bestie. Il criterio di valutazione della superiorità di un uomo rispetto a un altro si basa sul grado del suo timore di Allah, il Dio. Fattore di coesione sociale è la visione della vita, dell'uomo e del mondo fondata sulla rivelazione divina. Questo è il cemento che unisce tra loro i consociati nello Stato islamocratico. La posizione di superiorità del cittadino nello Stato islamocratico dipende solo dalla sua caratura morale e dalla sua eccellenza sugli altri per religiosità e rettitudine. Coloro che hanno credenze e pratiche di vita diverse sono ovviamente estranei alla comunità, ma in base alla legge divina la comunità è tenuta alla pacifica convivenza con essi, poiché anch'essi sono figli di Adamo, ai quali, in grazia del rapporto di fratellanza, è obbligatorio riconoscere loro tutti i diritti umani fondamentali. La società islamica offre alle comunità e ai gruppi non musulmani diritti sociali e culturali che vengono accordati sulla base del vincolo derivante dall'appartenenza comune all'umanità.